ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin Eden tornò dal mare, verso la California, spinto dal desiderio di un amante. Finiti i soldi, Martin si era imbarcato come marinaio semplice su una goletta che andava a cercare tesori nascosti. Ma alle isole Salomone, dopo 8 mesi di inutili tentativi, la spedizione si era sciolta. Gli uomini erano stati pagati sino all'Australia e lì Martin si era subito imbarcato su una nave d'alto mare, diretta a San Francisco. Durante quegli 8 mesi, aveva non solo guadagnato denaro sufficiente per restare a terra molte settimane, ma aveva anche potuto studiare e leggere a volontà. Martin aveva una mente adatta allo studio, e quella facilità nell'imparare era sorretta sia da una natura indomabile che dall'amore per Ruth. Studiò molte volte il libro di grammatica che aveva portato con sé, fino a quando il suo instancabile cervello non lo padroneggiò perfettamente. Dopo aver studiato più volte il libro di grammatica, si dedicò al dizionario. Cercava di aggiungere ogni giorno 20 parole al suo vocabolario, anche se, come scoprì, non era un compito semplice. Quando era al timone o di guardia, Martin ripeteva la lista sempre più lunga di definizioni e pronunce corrette, deciso a impararla, ma invariabilmente si addormentava. Pronunciava con enfasi le sillabe finali di ogni parola e le ripeteva migliaia di volte. Alla fine notò con sorpresa che aveva cominciato a parlare meglio e in un inglese più corretto di quello degli ufficiali e persino degli avventurieri che viaggiavano in cabina, i finanziatori della spedizione. Per qualche strano caso, il capitano, un norvegese con gli occhi da pesce, possedeva un'edizione completa delle opere di Shakespeare che non leggeva mai e Martin gli aveva fatto il bucato per guadagnarsi il permesso di accedere a quei preziosi volumi. Alla fine, la lettura di Shakespeare gli aveva sì insegnato molti termini arcaici e obsoleti, ma lo aveva anche preparato ad apprezzare l'inglese nobile. Gli 8 mesi erano stati spesi proficuamente, e Martin, oltre ad aver appreso a parlare bene e a riflettere su argomenti elevati, aveva imparato molto su se stesso. Accanto alla timidezza, dovuta al fatto di sentirsi ancora ignorante, era sorta in lui la convinzione di possedere capacità notevoli. Avvertiva un forte divario tra sé e i suoi compagni, ma era abbastanza saggio da capire che quella differenza era dovuta più alle proprie potenzialità che ai risultati finora ottenuti. Quello che aveva fatto lui potevano farlo anche loro. Martin, però, avvertiva confusamente che qualcosa fermentava dentro di lui, e quel fermento gli diceva che in lui c'era molto di più di ciò che aveva già ottenuto. Martin era torturato dalla squisita bellezza del mondo. Avrebbe desiderato che Ruth fosse lì per dividerla con lui. Allora decise che avrebbe descritto per lei le molte bellezze dei mari del sud. E a questo pensiero lo spirito creativo che era in lui si infiammò e lo incitò a ricercare quella bellezza per un pubblico più numeroso della sola Ruth. E poi, tra lo splendore e la gloria, gli venne la grande idea. Avrebbe scritto. Sarebbe stato uno degli occhi per mezzo dei quali il mondo vede, una delle orecchie per mezzo delle quali il mondo ascolta, uno dei cuori per mezzo dei quali il mondo sente. Avrebbe scritto qualsiasi cosa: poesia, prosa, romanzi, articoli, drammi, commedie come Shakespeare. Aveva davanti una carriera e un modo per conquistare Ruth. Gli uomini di lettere erano i giganti del mondo. Una volta sbocciata, quell'idea si impossessò di Martin e il viaggio di ritorno a San Francisco fu come un sogno. Old man, look at my life. I'm a lot like you. my life, I'm a lot like you were. Era inebriato da un potere al quale non aveva mai pensato prima. Sentiva che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Su quel mare vasto e solitario gli si aprivano orizzonti più ampi. Vide per la prima volta con chiarezza Ruth e il suo mondo. Li vide nella sua mente come se fossero diventati una cosa concreta che lui poteva prendere e rigirare tra le mani per esaminarla. Scrivere. Quel pensiero bruciava in lui come fuoco. Avrebbe iniziato a scrivere non appena fosse ritornato e per prima cosa avrebbe descritto il viaggio dei cercatori di tesori. L'avrebbe venduto a un quotidiano di San Francisco, ma non avrebbe detto nulla a Ruth. Lei si sarebbe dapprima stupita e poi sarebbe stata felice di vedere il suo nome stampato. Non avrebbe più dovuto riprendere il mare come marinaio e per un istante gli apparve l'immagine di uno yacht. Altri scrittori possedevano uno yacht. Naturalmente, si ammonì, all'inizio le cose sarebbero progredite lentamente e per un po' avrebbe dovuto accontentarsi di guadagnare solo il denaro necessario per continuare a studiare. Poi, dopo un po' di tempo, un tempo indefinito, quando fosse stato sufficientemente istruito e preparato, avrebbe fatto il colpo grosso e il suo nome sarebbe stato sulle labbra di tutti. Ma è più importante di tutto ciò. Infinite volte più importante di ogni altra cosa, avrebbe dimostrato di essere degno di Ruth. La fama era qualcosa di piacevole, ma il suo splendido sogno era nato per Ruth. Martin non era un cacciatore di fama, era uno dei folli amanti di Dio. Arrivato ad Oakland con in tasca il gruzzolo della paga, Martin affittò di nuovo la sua vecchia stanza nella casa di Bernard Higginbotham e si mise al lavoro. Non fece sapere a Ruth che era tornato. Sarebbe andata a trovarla solo dopo aver finito l'articolo sui cercatori di tesori. Grazie alla violenta febbre creativa che lo bruciava, per Martin non fu difficile rinunciare a vederla, anche perché proprio l'articolo che stava scrivendo l'avrebbe avvicinata a lui. Non aveva idea di quanto dovesse essere lungo un articolo, ma si basò su un servizio di 2 pagine del San Francisco Examiner, dopo averne contato le parole. Finì il suo articolo in 3 giorni di lavoro. Ma, dopo averlo copiato con cura, scrivendolo con una calligrafia larga e facile da leggere, scoprì, in un manuale di retorica preso in biblioteca, che esistevano cose come i paragrafi e le virgolette, cose delle quali lui non aveva mai sentito parlare prima di allora. Si rimise prontamente al lavoro e riscrisse l'articolo, consultando in continuazione le pagine del manuale di retorica. Imparò in un solo giorno più cose sul comporre di quelle che uno scolaro in media impara in un anno. Martin inviò il manoscritto, ben steso, in una busta indirizzata all'editore del San Francisco Examiner. Pensava che un articolo accettato da un giornale fosse pubblicato immediatamente e poiché aveva spedito il manoscritto venerdì, si aspettava di vederlo uscire la domenica successiva. Pensava che sarebbe stato bello se Ruth avesse saputo del suo ritorno vedendo l'articolo. Poi, la domenica pomeriggio, sarebbe andato a trovarla. Nel frattempo, era preso da un'altra idea. Era un'idea della quale era molto orgoglioso perché gli sembrava ragionevole, saggia e modesta. Avrebbe scritto un romanzo d'avventura per ragazzi e l'avrebbe venduto a The Youth Companion. Venerdì sera Martin finì il suo romanzo a puntate, lungo 21.000 parole. A 2 centesimi per parola, calcolò, avrebbe guadagnato $420. Ah, non male per una settimana di lavoro. Era più denaro di quanto ne avesse mai posseduto in una volta sola e non sapeva come avrebbe potuto spenderlo tutto. Ogni giorno Martin passava lunghe ore nella sala riviste della biblioteca, studiando ciò che gli altri avevano scritto, analizzando il loro lavoro con zelo e spirito critico, confrontandolo con il proprio, chiedendosi e richiedendosi quale trucco segreto avessero scoperto quegli scrittori, trucco che permetteva loro di vendere ciò che scrivevano. Martin era colpito dall'enorme quantità di roba morta che veniva stampata né luce. Né vita, né colore attraversavano quegli scritti. Erano privi del respiro della vita Eppure si vendevano a 2 centesimi per parola, $20 per 1000 parole, l'articolo sul quotidiano diceva così. Martin restava sempre perplesso davanti agli innumerevoli racconti brevi, scritti con agilità e ingegno, senza dubbio, ma privi di vitalità e di verosomiglianza. La vita era così strana, meravigliosa, colma di una immensità di problemi, sogni, geste eroiche, eppure quei racconti trattavano solo delle banalità dell'esistenza. Martin avvertiva la pressione e la tensione della vita, le sue febbri, i suoi sudori, le sue improvvise rivolte, erano certamente queste le cose che bisognava raccontare. Lui voleva narrare le glorie dei comandanti di missioni disperate, degli amanti folli, dei giganti che combattevano sotto un'intollerabile pressione tra terrore e tragedia, piegando la vita con la forza della loro volontà. Il problema principale era che Martin non conosceva nessun editore e nessuno scrittore. Non c'era nessuno con cui potesse parlare, nessuno che potesse dargli un suggerimento o un minimo consiglio. Martin cominciò a dubitare che gli editori fossero degli uomini in carne ed ossa. Sembravano piuttosto gli ingranaggi di una macchina. Ecco che cos'erano. Eh già, erano una macchina. Martin riversava la sua anima nei racconti, negli articoli, nelle poesie, e poi li affidava ad una macchina. Piegava i manoscritti, li metteva in una lunga busta insieme a un francobollo di valore adeguato, sigillava l'involucro, incollava altri francobolli sull'esterno e poi lo lasciava cadere nella buca delle lettere. La busta viaggiava attraverso il continente e dopo un certo periodo di tempo il postino gli riportava il manoscritto infilato in un'altra lunga busta sulla quale erano stati incollati i francobolli che Martin aveva incluso nella propria. La lettera di rifiuto dava l'ultimo tocco all'orribile somiglianza dell'intero processo con una macchina. Le lettere erano prestampate secondo una formula stereotipata. Martin ne aveva ricevute centinaia, una dozzina o più per ognuno dei suoi primi lavori. Se avesse ricevuto un rigo, un solo rigo scritto apposta per lui, pur accompagnato da un rifiuto definitivo, sarebbe stato felice. Ma nessun editore gli aveva dato una prova di esistenza e Martin poteva soltanto concludere che all'altra estremità del processo non c'era il calore di un essere umano, solo ingranaggi che ben oliati scorrevano alla perfezione in una macchina. Martin attendeva il verdetto di Ruth, già pieno di soddisfazione. Non aveva alcun dubbio su quale potesse essere. E per questo rimase paralizzato quando la sentì dire «È bello!» «È bello!» ripeté lei con enfasi dopo una breve pausa. Naturalmente era bello, ma era qualcosa di più che semplicemente bello. C'era qualcosa di così acutamente splendido da rendere la bellezza un semplice balletto. Martin, in silenzio, si abbandonò sul terreno, osservando la tremula figura di un enorme dubbio levarsi davanti ai suoi occhi. Aveva fallito. Non riusciva ad esprimersi. Aveva visto una delle più grandi cose al mondo, ma non era riuscito ad esprimerla. «Vorrei che mi mostrasse tutto ciò che scrive, signor Eden», disse Ruth. Martin arrossì per il piacere. Allora Ruth era veramente interessata al suo lavoro. Almeno non gli aveva dato una lettera di rifiuto prestampata e aveva definito belli alcuni passi dei suoi scritti. Quelle erano state le prime parole di incoraggiamento che avesse mai ricevuto da qualcuno. «Lo farò», le disse con passione, «e le prometto, signorina Morse, che migliorerò. Lo so, sono venuto da lontano e devo ancora andare lontano, ma ce la farò, anche se dovessi camminare sulle mani e sulle ginocchia». Sollevò un fascio di manoscritti. «Queste sono le liriche del mare. Quando arriveremo a casa gliele darò, così potrà leggerle quando le sarà più comodo. E non abbia paura di dirmi che cosa ne pensa davvero. Quello di cui io ho bisogno, più di ogni altra cosa, è un giudizio. E la prego, sia sincera con me». «Le prometto che sarò sincera», rispose Ruth, sentendosi a disagio, perché gli aveva già mentito e probabilmente avrebbe dovuto farlo ancora in futuro. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs, tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies. La prima battaglia combattuta è conclusa, Martin si disse allo specchio 10 giorni più tardi. Ma ci saranno una seconda battaglia, una terza battaglia, battaglie fino alla fine del tempo. A meno che... non aveva finito la frase. Si era guardato in giro per la misera piccola camera e i suoi occhi si erano soffermati con tristezza sul mucchio di manoscritti che giacevano in un angolo, ancora nelle lunghe buste nelle quali gli erano stati rinviati. Martin non aveva più francobolli con i quali permettere ai suoi lavori di riprendere il viaggio e così, da una settimana, i plichi si andavano accumulando. Altri ancora. Sarebbero arrivati la mattina dopo e il giorno successivo e quello dopo ancora, fino a quando non gli fossero stati restituiti tutti, senza che Martin potesse spedirli a qualche nuovo indirizzo. Da un mese non pagava il noleggio della macchina per scrivere e non poteva pagarlo perché aveva denaro a malapena sufficiente per l'affitto di quella settimana e per la tassa dell'ufficio di collocamento. Lasciò cadere le braccia sul tavolo e vi affondò la faccia. Gli faceva male la gola. Voleva piangere. Si ricordò della sua prima rissa, quando aveva 6 anni e tirava pugni alla disperata mentre le lacrime gli scorrevano lungo le guance. L'altro ragazzo, più grande di 2 anni, lo aveva picchiato e pestato fino a massacrarlo. Rivide i ragazzi disposti in cerchio che si erano messi a ululare come barbari, quando alla fine Martin era caduto, contorcendosi per i conati di vomito, sporco del sangue che perdeva dal naso e delle lacrime che gli scorrevano dagli occhi pesti. «Povero piccolo sbarbatello», mormorò, «e ora ti hanno massacrato un'altra volta, proprio come allora, picchiato, fino a ridurti in poltiglia, fatto e finito». La visione di quella prima rissa si attardò ancora per un po' nei suoi occhi, poi, mentre la guardava, Martin la vide dissolversi per ricomporsi nella lunga serie di risse che ne era seguita. 6 mesi più tardi... Faccia di formaggio. Quello era il ragazzo in questione. L'aveva ridotto di nuovo in poltiglia, ma quella volta Martin era riuscito a fargli un occhio nero. Era già un miglioramento. Rissa dopo rissa, Martin le rivide tutte. Lui sempre fatto a pezzi, mentre Faccia di formaggio esultava. Ma Martin non era mai scappato, e il ricordo lo fece sentire più forte. Era sempre rimasto a prendersi tutta la medicina. Faccia di formaggio era un piccolo diavolo nel fare a pugni, e non una sola volta aveva mostrato di avere pietà di lui. Ma lui non si era mai tirato indietro. Era sempre rimasto al suo posto. Poi vide un vicolo stretto tra case decrepite. Il vicolo era chiuso da un edificio in mattoni, a un piano del quale usciva il ritmico tuonare delle presse che stampavano la prima edizione dell'Enquirer. Martin aveva 11 anni e Faccia di formaggio 13. Tutte e due consegnavano i giornali e quello era il motivo per il quale erano lì. Aspettavano le loro copie. Naturalmente Faccia di formaggio lo aveva preso di nuovo di mira e c'era stato un altro scontro, il cui esito era rimasto però indeterminato, perché alle 4:15 la porta della tipografia si era aperta e la banda di ragazzini era corsa dentro per piegare le copie del quotidiano. «Domani ti farò mangiare la polvere», Martin sentì la promessa di Faccia di formaggio e poi sentì la sua voce. Un pigolio tremante per lo sforzo di trattenere le lacrime che acconsentiva a trovarsi lì il mattino dopo. E l'indomani Martin si era presentato affrettandosi da scuola per essere nel vicolo 2 minuti prima di Faccia di formaggio. Gli altri ragazzi gli dicevano che aveva ragione e lo consigliavano. Gli svelavano gli errori che commetteva nel fare a pugni, gli assicuravano che se avesse seguito le loro istruzioni avrebbe vinto. Ma quegli stessi ragazzi elargivano i loro consigli anche a faccia di formaggio. Come si erano divertiti! Martin interruppe il corso dei suoi ricordi per invidiare quegli spettatori. Lui a faccia di formaggio dovevano aver messo in piedi un gran bello spettacolo. Poi lo scontro ebbe inizio e continuò senza round per 30 minuti, fino a quando non si aprirono le porte della tipografia. Martin guardò quella giovane immagine di se stesso, che giorno dopo giorno si affrettava da scuola verso il vicolo dell'Enquirer. Non poteva camminare velocemente. Era rigido e zoppo per il continuo combattere. Aveva le braccia coperte di lividi dal polso al gomito per gli innumerevoli pugni che aveva parato. Qua e là la carne torturata si stava infettando. Gli facevano male la testa e le braccia e le spalle. Gli faceva male anche la schiena. L'intero corpo gli doleva e si sentiva la testa pesante e intontita. A scuola non giocava e non seguiva le lezioni. Persino stare seduto immobile per tutto il giorno in un banco, come Martin faceva, era una tortura. Sembrava fossero passati secoli da quando aveva avuto inizio quel ciclo di combattimenti quotidiani. Il tempo si era dilatato in un incubo, in un futuro infinito di scontri quotidiani. Perché non riusciva a vincere faccia di formaggio? Martin se lo chiedeva spesso. Sconfiggerlo lo avrebbe salvato dall'infelicità. Ma porre fine agli scontri e permettere a faccia di formaggio di vincere, questo Martin non se l'era mai neppure sognato. E così, in preda alla nausea nel corpo e nell'anima, ma deciso a imparare la costanza e la pazienza, Martin si trascinava fino al vicolo dell'Enquirer per affrontare il suo eterno nemico. Faccia di formaggio era nauseato come lui e sarebbe anche stato disposto a lasciar perdere, ma c'erano gli altri ragazzi, quelli che come loro consegnavano i giornali e che li osservavano, rendendo l'orgoglio una virtù dolorosa e necessaria. Un pomeriggio, dopo 20 minuti di sforzi disperati per annientarsi reciprocamente secondo regole prestabilite che non permettevano calci, colpi bassi o inflitti all'avversario caduto a terra, faccia di formaggio, ansante e annaspante, propose di considerare l'incontro concluso alla pari. E ora Martin, la testa appoggiata sulle braccia, si commosse al ritratto che vedeva di se stesso in quel lontano pomeriggio di molti anni prima. Allora, annaspando e ansando e soffocando per il sangue che gli colava in bocca e poi in gola dalle labbra rotte, si era avvicinato zoppicando al suo avversario e sputando sangue per poter parlare. Gli aveva gridato che non si sarebbe mai arreso, che mollasse lui se lo voleva. Ma faccia di formaggio non aveva ceduto e lo scontro era ripreso fino all'esaurimento e poi oltre, fino a un esaurimento incommensurabile e inconcepibile, fino a quando la folla dei bruti, soddisfatto il desiderio di sangue, fu terrorizzata da ciò che vedeva e supplicò entrambi gli avversari di smetterla. E faccia di formaggio, pronto a cadere e morire, o a rimanere in piedi e morire, un orribile mostro al quale i pugni ricevuti avevano tolto ogni somiglianza con faccia di formaggio, traballò ed esitò. Ma Martin balzò in avanti e lo colpì ancora e ancora. E poi, dopo un secolo, o almeno così sembrava, mentre faccia di formaggio si indeboliva rapidamente, durante uno scambio di colpi si sentì un forte schiocco e il braccio destro di Martin si afflosciò lungo il fianco. Si era rotto. Tutti sentirono lo schiocco e capirono. Anche faccia di formaggio capì e balzò come una tigre contro l'avversario ferito, scatenando una pioggia di colpi. La banda di Martin si mosse per intervenire, ma lui, stordito dalla gragnuola di pugni, singhiozzando e gemendo, la rimandò indietro con volgari e pressanti bestemmie, con la forza di un'estrema e disperata desolazione. Martin continuò a tirare pugni solo con la mano sinistra e mentre lo faceva, con ostinazione, cosciente solo a metà, sentì, come se provenisse da una grande distanza, un mormorio di paura correre tra le due bande. Uno di loro disse con voce tremante: «Compagni, non è una scazzottata! Oh, questi si ammazzano! Dobbiamo fermarli!» Ma nessuno cercò di fermarli e Martin ne fu felice. Continuava a tirare pugni con un solo braccio, stancamente ma incessantemente, mirando a qualcosa di sanguinolento davanti a sé, che non era una faccia, ma qualcosa di orribile, una oscillante, paurosa, barbugliante cosa senza nome, che persisteva davanti ai suoi occhi, ormai quasi ciechi, che si rifiutava di sparire. Martin continuava a tirare pugni sempre più lentamente, come se spremesse da se stesso gli ultimi brandelli di vitalità, attraverso secoli e millenni ed enormi intervalli di tempo, fino a quando si rese confusamente conto che la cosa senza nome stava cadendo, stava scivolando lentamente verso il basso, sul tavolato grezzo del ponte. Il momento successivo, Martin torreggiava su quella cosa, barcollando e ondeggiando sulle gambe tremanti, brancicando l'aria in cerca di sostegno. Gridò con una voce che lui stesso non riconobbe. «Ne vuoi ancora? Avanti, parla! Ne vuoi ancora?» Martin continuava a urlare, chiedere, blandire, minacciare, per sapere se Faccia di Formaggio ne volesse ancora, quando sentì i compagni della banda prenderlo per le spalle, sostenerlo mentre cercavano di infilargli il cappotto. Poi fu avvolto da un'onda improvvisa di buio e di oblio. La sveglia di latta sul tavolo continuava a ticchettare, ma Martin Eden, la faccia seppellita nelle braccia, non la sentiva. Non sentiva nulla, non pensava. Aveva rivissuto così intensamente la sua vita che era svenuto, proprio come era svenuto anni prima sul ponte dell'ottava strada. Il buio e il vuoto durarono un intero minuto, poi, come se si risvegliasse dalla morte, si alzò in piedi di scatto, con gli occhi fiammeggianti, il sudore che gli colava dalla faccia, gridando: «Ti ho battuto, Faccia di Formaggio! Mi ci sono voluti 11 anni, ma ti ho battuto!» Le ginocchia gli tremavano. Martin si sentì svenire e barcollò indietro, verso il letto, lasciandovisi cadere di colpo, proprio sul bordo. Era ancora nella morsa del passato. Si guardò intorno, guardò perplesso e allarmato la stanza, chiedendosi dove fosse, finché non intravide i manoscritti ben impilati nell'angolo. Allora gli ingranaggi della sua memoria attraversarono un tempo lungo 4 anni e Martin fu di nuovo consapevole del presente, dei libri che aveva aperto e dell'universo che aveva conquistato attraverso quelle pagine. Fu di nuovo consapevole dei suoi sogni e delle sue ambizioni, del suo amore per un pallido spirito di ragazza, una ragazza sensibile ed eterea, che aveva sempre vissuto protetta e che sarebbe morta per l'orrore se fosse stata testimone di un solo istante di quella vita che lui aveva appena rivissuto, di un solo istante di quella melma della vita che Martin aveva dovuto attraversare. Si alzò in piedi e si confrontò con la sua immagine nello specchio. «E così ti sei innalzato dal fango, Martin Eden», disse solennemente. «Hai lavato i tuoi occhi in una luce splendente e hai raddrizzato le tue spalle fino a raggiungere le stelle. Hai fatto ciò che ha fatto l'intera vita. Hai lasciato morire la scimmia e la tigre per strappare un'eredità più elevata a tutte le forze esistenti». Guardò meglio la propria immagine riflessa nello specchio e rise. «Un po' di isterismo e di melodramma, eh?» si chiese divertito. «Beh, non importa. Hai battuto Faccia di Formaggio e batterai gli editori, anche se ti fossero necessari 3 volte 11 anni per farlo. Non puoi fermarti adesso. Devi continuare. Uno dei due deve essere sconfitto. Lo sai?» Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it